Non so voi, ma io non credo che la proposta dell'assessore Maiolo di dare una mano ai milanesi anziani e finanziandogli almeno in parte il Viagra abbia un grande futuro davanti a sé. È bastata una settimana, scarsa, per declassarla da seria iniziativa bipartisan capace di suscitare una volta tanto il consenso di tutte le forze politiche a sperimentazione da mandare avanti senza impegno né stanziamenti, fidando sulla improbabile generosità delle case farmaceutiche produttrici. E capirete bene. È stato fin troppo facile obiettare che altre e ben più gravi sono le difficoltà che attanagliano i cittadini che hanno superato la mezza età. Problemi d'alloggio, di pensione, di assistenza domiciliare, di consulenza sanitaria, di inserimento sociale e di solitudine. E il vice sindaco prima, i consiglieri della Margherita poi. E quanti in seguito gli si sono accodati in questo richiamo alla logica della priorità, compresa direi una buona parte degli ascoltatori di Radio Popolare, almeno a giudicare dalle risposte al microfono aperto che l'emittente ha dedicato al problema, tutti costoro hanno avuto buon gioco a cambiare le carte in tavola. Quelli che nei primi giorni venivano descritti sui giornali come arzilli vecchietti non domi, simpatici nella loro ostinata vitalità, sono sfumati via via in figure un poco più ambigue, capaci di anteporre la ricerca del piacere all'assunzione di quelle responsabilità che l'età provetta in ogni caso comporta. Non sono stati in pochi a dubitare che molti di loro cercassero nella mitica pillola blu non tanto una rivitalizzazione dei rapporti coniugali quanto lo strumento di chissà quali trasgressioni senili. Altro che Viagra, si è detto. I cittadini attempati hanno il preciso dovere di starsene a casa propria in attesa dei servizi che il loro stato più si confanno, e pasti caldi, lenzuola pulite, infermieri esperti, fisioterapisti capaci e quant'altro può giovare a un organismo malconcio. L'Eros, come spiega Sofocle in una famosa citazione della Repubblica di Platone, è un padrone crudele ed esigente, da cui l'anziano, sotto sotto, è felice di essersi liberato. Questa reazione, citazione di Sofocle a parte, era affatto prevedibile. È difficile che nell'Italia di Berlusconi, di Prodi e del cardinale Ruini faccia molta strada la proposta di agevolare a spese pubbliche la vita sessuale di una categoria qualsiasi di cittadini. Sappiamo tutti che i nostri politici, laici quando va bene ma non laicisti mi raccomando, la sessualità interessa soltanto nella misura in cui la si può reprimere o umiliare, e che gli unici provvedimenti che costoro riescono a concepire a pro della famiglia sono gli assegni di natalità. La sessualità degli anziani, per forza di cose, non ha valenza riproduttiva, e basterebbe questo per caricarlo agli occhi della Chiesa e di quanti dalla Chiesa si fanno guidare di una irredimibile negatività. E in più di 15 anni di frequentazione del centrodestra, evidentemente, la Tiziana Maiolo non ha ancora capito che l'unica posizione bipartisan possibile in questo paese è quella di chi si piega disciplinato ai volevi del clero. Poi, siccome questa politica è innanzitutto ipocrita, sappiamo tutti che gli anziani non avranno il Viagra e non avranno neanche quei servizi in più che all'elargizione del Viagra sono stati strumentalmente contrapposti. E se gli andrà proprio bene, il prossimo agosto, oltre a portarli a prendere il fresco nei centri commerciali, gli organizzeranno il campo di bocce e la pista del liscio dietro il Castello Sforzesco. Non è proprio detto che gli piacciano, anche perché nei parametri dell'anzianità ormai rientra parecchia gente che si è formata negli anni 60, quando il liscio non era precisamente al suo acme. Non è detto che gli piacciono, ma la tradizione è la tradizione, e soprattutto nessuno della Margherita avrà niente da obiettare.